questo che sta fischiando. Ascolta, va a Ginco, lo senti? Sì, lo sento. No, se c'è questo o no? Ma io non c'è nessuno a parola. Vedi, c'è, ma deve essere qua adesso. Qua vicino a me. Se non è Vanino, sto quando. Ma non capisco. Tussino. No, ma non mi sono. E lui è che... Ma sei venuto. Allora, sei buttando. Mi sono lasciato un errore con la scala. Non esce male, non è chiara la radio. Ma sì che ha mangiato il cagliura. Cagliura ci ha mangiato. Ah, capo. Perché... Però con lo scala, te che l'hai visto? Ma lo so, gira, che ero io. Tu? E dove? Ma fischiando a capo dell'11? No, ma stavo fischiando. E non ero nell'11, ero nel 30. Ah, boh. La stavi provando, Antonio, buonasera. Ciao già, no, stavo provando la farina, niente, ma ero sul 30, non ero sull'11. Vabbè, ma gatti vatti va via, sarei spattato sino a Sorso. Ma io sono a Sorso praticamente. A me? No, io non capivo più nulla. Senti la soglia. Grazie, mi ha mangiato bisogno. Boh, non lo so, no. Sicuramente sì, quel Vannino. Oh, Ioia! Quel birichino. Ma dai, anche una riserva, Certamente che sì, lei chi è? Avanti, buonasera. Ciao a tu, sono la frequenza, ben sentito. Ben sentito anche a te, ma questo nuovo ce l'avrà un nome? Manuele da questa parte. Azzardo. Ciao Manuele, dimmi. Luca. Manuele Ginco. Beh, tu, cazzo, mi arrivi forte qua, la mazza. Ah, mi senti adesso, visto, dai, che mi dice sempre che da casa non mi senti. Sì, 9:30. Vabbè, 9:30, insomma, sta arrivando forte, no? Antonio, stacca tutto. Ui, non sono attaccato, già c'ho la mandorla qua. Luca, ha fatto un bieno, ha fatto, lui è a riserva, luce. Oh, ciao Manuel, comunque, ben ascoltato, ciao anche a Franco. Papà, ciao a tu. E comunque non ero io, ero sul 30, Però io non ho sentito gente fischiare. Ah, se ci hai annullato, stavo parlando io con Gianni e ci hai annullato. Non so se sei tu o chi è, comunque ci hai annullato a noi. Addirittura, io all'anima. Già, è vero che quello là prende gli sblatteri, quello che stavo usando, quello all'8, che stavo usando poco fa, ma alla braccia degli sblatteri. Lo sto usando anch'io un 48, ma il 48 è nato per prendere sblatter. Non si viaggia, via qui a coipi. Allora, meglio di aereo e lui. Penso che è parecchio di dritti, ma parecchio. C'è una frusaglia di dritti. Ma mi dica che per esempio Anto. Tu vi. Gavino. E tu bene mi ascolti, Anto. No, era quello. Antonio. Sì. Bene mi ascolti, sì. Tu. Cappa. Sì, perché quello che stai usando adesso non è chiacchierone. Quale? Il Texa. Qui te ne sblatti di quanto è il 48? Se non è più. Ah. Sentiamo. Va bene, Gianni, ripigliatela. Ehi, dai, tu, facci sognare. Chiama da sopra, vediamo un po' come esci. Franco, come va? E come non è vada? Piano piano. No, come va questo apparecchio? Ho cambiato apparecchio, ma mi dice di manca bizzarri, dai. Ehi, vabbè, con la confusione, non ci ho fatto caso. No, va bene questo. Oh, ma questo qui è l'MB più 5, è quello che gli ho messo la capsula quella verde, dai. Quella lì però sicuramente era o di citofono, qualche cosa del genere, perché quella verde solitamente era del citofono. E ma quella verde è quella che esce un bel bene. Non lo so qua come. No, sta uscendo bene, sta uscendo. Io quella lì ce l'ho all'MB più 4 ce l'ho. Kappa, dai. Guarda, adesso sto parlando un po' più da vicino, va meglio? Sì, è un vero. Più compatta, eh. Avanti, 5-5-5. Ma sarò più, vado già, troppo compatto, sì. Troppo compatto, aspetta che è la lontano. No, comunque già va bene, dai. Vai a modulazione, orario super 5, vai a tu. Questi vizi che avete di stare sempre pompificandovi la radio. Non ho pompificato niente, io ho attaccato il microfono e punto. Ma c'è la zanzara, se mi sembra niente. Perché me lo sono attaccato alla bocca, dai, erano 2 centimetri. Bene, io invece sto usando il 48 col microfono originale. Non mi piace il 48 col microfono originale. E di solito il 48 col microfono originale c'è tutto nasino, ma... No, ma questo qui è vergine. Non è mai stato toccato, un 48 vecchiotto, quindi con la culatta oro. Però come superstar di radio, non vi ne... Ui, il superstar è il gas, escono ben bene di radio. Vabbè, sono tutti della stessa razza, già. Escono molto bene. Io me l'ho voluto comprare Superstar perché ho sentito a Marco che usciva molto bene in radio. Sì, in effetti sì. E poi sono tutti quanti 3006, 3009, della vecchia... La scheda madre è sempre quella, eh. Sì, ma infatti sono fatti... Le schede sono fatte con vecchie teorie. Non sono di quelle nuove con micro... come si chiamano, ma microcomponenti. SMD, no, sono come il vecchio che ho io. Anch'io ce l'ho, il mio si chiama Connex 3009. Oh, Anto, ma ti stavo dicendo, mi ascolti bene, sì? Sì, lui, Santiago 8. Sì, sì. Va bene. No, vabbè, io ripeto, l'antenna è radiale sulle tegole, perché non avevo palo e l'ho stretta così. Cazzo, lui, ti sei preso il vizio anche tu, appena di vizzare. Cosa? Tu mi senti bene, sì. Sono bastato questo Gianni, sì. Cioè, sentite la risposta, non c'è che mi fa la domanda, scusa. Avanti, Ginko. Sto uscendo Antonio, comunque sta uscendo bene, rispetto alla tua volta. Aveva abbastanza bene. Ehi, va bene, Emanuele, sono in due posti diversi, quindi non si possono fare paragone. Scusa, un'altra volta lo vedi, su al monte? Sì, su al monte. Adesso sono in campagna. Ah, parisso, eh. Adesso sono solo a Budibuddi. Prima ero su a Eva Giara. Eva Giara, acqua azzurra. Qua si ne vedi, la radio è buona. Ma tu lì cosa c'è? La Mantova 5 e tu? No, qua ho la Mantova 1. Ma è tutta composta, la rosetta radiale, in buccia mano? No, la base, il coso, come si chiama? La base, ce l'ho spaccata e quindi c'è solo un radiale. E vabbè, ma c'è bene lo stesso. Ciao, va bene. Ah, vabbè, accordata, è 1-1 di stazionaria, solo che se meno radiali ha e meno ricezione ha, poi chiaramente appoggiato al tetto così com'è, ricezione ancora di meno. Però se lo trovo un piantone già glielo cambio. Aspetta, dove sei? Vicino alla chiesetta? Come? Nella zona della chiesetta, sì. No, sono a Craburazzi. Ecco, arrivi, capita, 9:10 e più arrivi. Sono a Craburazzi, sono praticamente di fronte al sorso io. Cosa ci sarà? Boh, puoi dire andare a 1 chilometro, non ce n'è di più. Ecco, oh, infatti ha detto, ma strano, sta arrivando così forte. Vedi da questa parte allora. Sì, sono vicino. Vabbè, quando sono a casa sua stasera non mi sente nessuno. Oh, da lì è difficile che ti senta qua. Sì, deve essere una zona nascosta. No, sono nascosto io che non faccio l'antenna. Ah, ecco. Allora mettigli l'antenna buona. Sì, lo sai cos'è, che non ho mai voglia di salire sul tetto e poi... tanto tempo presso, molte volte, e poi vai a chiacchierare con qualcuno, non fai mai nessuno. Perché adesso non stai parlando, guardate di te, c'è sempre gente. Ma prima erano altri tempi, non tu, prima veniva di niente. No, ma non te lo ricordi? Quando frequentavamo la veloce, erano tutti quanti, erano tutti con la macchina, con l'antenna, ui. non riuscivi a parlare neanche in un canale dei 40, che erano tutti occupati. Manco entrare, sovramodulavano. Io adesso facciamo ammirare a questa, io guarda che ci sono 40 anni frequento allo gioco, cosa faceva? Sì, ma dico già, era più bello il baracchino, perché ti vedevi, ti mangiavi una pizza assieme con gente nuova che conoscevi, ma non è più nulla, bro. Io l'unica cosa che rimpiango dei vecchi anni è che mancano le donne. Prima c'erano le donne, si poteva uscire e tutto quanto, si poteva rimorchiare. Ma tu ancora pensi di rimorchiarsi? Rimorchiarsi, ah, io sto parlando di prima. E poi non disdico anche adesso. Ma lasciare ai giovani queste cose. Ma tu, è che pensi che hai invenzione, va a rimorchiare. Ma vero, mi pensa la solita, non sai già in piedi, ma gira, ti vuoi regare a Cadegarone. Guarda che per la cronaca, io prima di essere operato, stavo con una tipa, adesso non ci sto più, però se proprio volete sapere, cavoli miei, ve li dico. Già, per la cronaca, noi stiamo scherzando, Non sono a quel punto, tu. Non è che hai bisogno, ma che ti dai le misure, sei un po' funente. Ho capito, ma io preferisco essere chiaro nelle cose. Per carità, te l'appoggio, guarda. Io te la spingo. Oh, stiamo scherzando, Nanni, non te la prendere, però poi... Noi non passiamo più il tempo. Ma mi avete ricordato dei brutti tempi, dicendomi quando non mi muovevo, cazzo, mamma mia. Non ci voglio manco pensare. Oh, Luca, ancora ci sei? Ma voi lo sentite la propagazione sotto? Sì, giaceccio. Basta, ma giaceva adesso. Poco fa era più forte, verso l'una. Io quando la sento mi emoziono, fra. A chi da sopra, da casa su, a stasera non tengo manco il vicino. Almeno c'è la compagnia. Ma davvero, adesso mi sono emozionato, come si dice la propagazione. Erano 20 anni che non sentivo più. Poi l'antenna Manuel che mi aveva, era venuto a fare dei lavori lì vicino a casa mia, Luca Flipper, ed era salito sul tetto e ho detto fai una cosa, c'ho questa antenna così, chissà, a bastone, poi agganciamola sul palo, l'ho fatta agganciare sul palo di un'antenna vecchia del palazzo fianco al mio, ma c'è 20 anni lì, sicuramente si è sciocca, si è fatta, magari sto uscendo col cavo, però ripeto, stazionale non ne ha, però non esce manco a balla e non ricevo praticamente quasi niente. Ma tu, sicuramente non si faccia da che cosa, Renzo. Perché sempre c'è una carica, me l'ha fatta vedere quando l'ha smontata una di quelle antenne che stai dicendo tu, è un filo di rame solo. C'è un avvolgimento del rame, e dopo c'è un tubo metallico, ma non ve ne è antenna. Non ve nulla, caro Cristo. E adesso vedo se in settimana ne ho voglia, salgo su, vedo un po' cosa posso fare, non qualcosa di grande perché per carità non ne voglio, ma un'antenna per farmi sentire la metterò sicuramente. Ok, Gianni. Un attimo che devo uscire, che mi sta chiamando mia moglie, ci sentiamo, dai, all'inizio dopo. Ehi, ok, fra, ciao, buon proseguimento. Ciao fra, buona serata, dai, ad ascoltarci alle migliori. Vai a tu. Vai già, chi l'ho già salutato. Vai al telefono adesso. Bene, bene. E niente, comunque mettitela un attimino. Io sto usando un altro canale radio di rimasto, ma fatelo conto. Ho capito, vabbè, ma tu adesso, ripeto, io da casa sua non ti sento perché ho quel problema di ricezione, capito? Se avessi avuto l'antenna funzionante, anche piccola, ti avrei sentito, ma è proprio andata chissà antenna sicuramente. A chi sentivi in pratica con quell'antenna? E a chi sento? Sento a Claudio, ma a Claudio lo senti anche senza antenna, che lui è la torre di controllo numero uno. Sento Claudio, sento Luca, quando è a casa sua, perché quando è dalla fidanzata lo sento bassissimo. Sento Luca Flipper, non tanto forte, poi sento Roberto Quadrato che arriva fortissimo, ma neanche tante persone. Vabbè, non sembra, secondo me si è saltata qualcosa. No, ma è tanta frasica, o semplicemente, come gli ho detto a Luca, si è sganciato il cavo e sta uscendo solo col cavo, magari ha attaccato al piede e non ve più nuda. Anche non te la vai fare a Luca. No, troppo alta, non è quello il discorso, Manu, è alta. Io voglio una cosa poco visibile, né? Tanto non è che mi serve a me di arrivare, io non faccio di action, non faccio nulla, mi serve così per provare qualche radio quando sto facendo qualche riparazione, oppure per farmi una chiacchierata così, non ho bisogno di grosse cose. In città con una boomerang riesci lo stesso comunque a parlare con tutti. E guardate come la comprate, una bazooka attorno nuova, ne ha due tua Maria in vendita, perché non ce l'ho fatto, pensa a tutti. Ma come mai non se le ha piazzate? No, le ha messe, ne ha altri due. E io te ne ho comprato due di chi c'ha antenne. Ne aveva quattro. Boh, cazzo, quattro antenne. E le ho messo, se in casa è sul 23, lo dice, se ne ha una, se la fai quindi. Quattro, una, quattro, tutte dello stesso modello. Oioioioi! Tanto visto che non vuoi mettere antenne vistose, quella lì già va bene. Io stavo pensando alla boomerang, che comunque è un'antenna che bene o male si fa apprezzare. Non è un granché, ma va. Ma la boomerang lo sai che è proprio la cosa del TVI. Vabbè, cosa avete lo TVI? Vuol dire che non va bene la televisione, non so, va bene di io. Ma adesso va gli altri. E quello è il problema, che non fare male quello. Quella della Grand Prix non è la boomerang che disturba, la boomerang non l'ha mai disturbata nessuno. Boh. Io non ho mai sentito che la boomerang disturba, è la Grand Prix che disturba. Ma già, che ce l'avevo anche io la boomerang, e stavo pensando alla radio. Ma non è la piazzata male, magari è la piazzata a livello delle antenne del televisore. Se non la piatti più su è normale che disturbi. E la 3,5 è la piazza delle antenne del televisore. Mi sembra strano, la boomerang che ce l'ha anche l'Ubroffetta, non l'ho mai sentito nominare che abbia disturbato televisore o roba del genere. Vabbè, dipenderà anche come metti il capo, tutto qua, tanto io già lo so fare, mi piatto, non è il problema. Lo sai cos'è, che non ne ho mai Puglia io già, mai Puglia. Allora, ci vuole più a dirlo che a farlo, molte volte io penso, tutta la casa, devo pulire, mamma mia. Mi pongo a farlo, attacco la musica a casa, in una mezza faccio tutto. Lo so, però tu magari sei lì, devi fare quello, io invece ho cognaria appiccato, dopo il radicchivaggio libero meglio di nuovo da appiccare in un'altra capituria. Qua l'ho messa l'antenna qui in campagna perché ho la terrazza, se fai stata per salire sul tetto, non sarei salito. Vabbè, vedi tu Anto. Però io ti do un consiglio, già che la te piazza non la te la piazza di una come si deve, così almeno non ci sali più e basta, come il cavo. Metti un'antenna come si deve, c'è anche quella che vedono la GBC 90 euro, cavolo, va benissimo, c'è la Torino, c'è la Marco Condor, vanno benissimo quelle antenne, non hanno problemi, non fanno TVI e arrivano da tutte le parti, è forte di segnale. Lo so già, però sono sempre alte, io non voglio mettere un'antenna da 6 metri e mezzo, 7 metri. Ma sono fine fine, tu non si vede nemmeno cosa si dice. Se tu fai quella di Marco Condo non si vede nemmeno, quasi. Già la vedi, non ti preoccupa, dopo la vedono, tutti curiosi a cosa serve, cosa non è, poi parlano e quelle danno fastidio, e iniziano a romperti le balle tutti, no? Allora, vediti un antenino di macchina, già metti di chi, così non lo vedi. No, mi metto la boomerang, che comunque la boomerang ha lo stilo da 3 metri, ma la metto lì, il radiale lo metto a terra e ciccia. E si nota meno, può sembrare un'antenna a radio, ma che antenne lunghe lunghe lo usano tutti, cosa è? Ma... Boia! Oh, Marco Condo, lo fai sentire il pelo. Ehi, scusate, sento per caso che stavo vagando da camera a camera. Antonio Riserva. Sì, qua tutto tace, sì. Qualcuno ha detto qualcosa, uno ha detto che addirittura usavo i potenziometri e che non li potevo usare, che erano vietati, capito? E che mi faceva levare tutto. I potenziometri. Sicuramente ha sentito la parola via radio, no? Uiuia, ciao Marco, ben ascoltato? No, ha collegato la parola potenza con lineare, capito? La potenza con potenziometri. Ehi, ma poi era uno scherzo già, ti ricordi? Ti ricordi, sì. Sicuramente era uno scherzo e poi dopo un periodo è tutto passato. E vabbè, comunque dai, vi saluto tutti che sono impegnato in una cosa audio-video, dai. Ciao a tutti, a più tardi. Pensavo che avessi qualche ragazza vicino, come l'hai detto, sottovoce. Ciao Marco. Mettete antenne, fregatevene, fate rischiatare tutti. E mettetevi anche i potenziometri. Io ne ho parecchi potenziometri. Faccio una scatola tutta di potenziometri. No, tu immagina se davvero questo, se non fosse stato uno scherzo, andava alla scoposta a dire che io usavo i potenziometri e che lui voleva me la TV. Quanto gli avrebbero riso in faccia, secondo te? Ma lo sai, chissà quanta gente ci ha data tanto, per tanti anni a dire chissà le cose più impensate. Uia. Va bene, saluto tutti ancora, dai, sto facendo montaggi audio-video però, non roba zozza. Vabbè, sempre montaggi sono. Ok, ciao a tutti, ciao, buon proseguimento, a da voi, ciao. Cos'è un film di guerra e pace, Marco? No, tipo Cicciolina e Moana e Mondiali 90. L'ultimo dei Moicani. Cioè, Mondiali 90, sì, me lo ricordo. No, sto scherzando, è roba di come si chiama quella cosa dei poveri che c'ho io, la GoPro dei poveri. Capo, vai tranquillo, dai, non c'è problema, siamo qua. Quando vuoi entra, avanti, Gico. Ehi, dai, mi attento un attimo, dai. Bene, ciao Marco, buon proseguimento. Io tra due minuti spengo le comunicazioni e devo ricevere una videochiamata per lavoro. Cambio. Andava, c'è problema. Qua siamo sempre. Azzardo! Hai finito, ti ho chiamato, non vedi? Delinquente! Certo, se veniva a lavarmi la schiena non ci sei venuto, perché per te mi ho lavato da solo. Vedi che delinquente che sei. Me l'hai chiesto solo una volta, se me lo chiedevi due volte io venivo, eh. Non vero! E allora c'avevo già il manico, la spazzola la metti tu. Non vero! Oioia! Il maru, eh! Male la fame! Poi c'è una prolunga, ci mettiamo la mia! Ehi, vabbè, non c'è bisogno della prolunga, ci arriva la schiena! Lo isoguno! La prolunga sicuro va arrivi, sicuro, basta solo la prolunga! La prolunga la puoi mettere anche da parte! Vabbè, la conserviamo se magari vogliamo salire più in alto! Allora, Mari, a Gianni che è alto, io va bene a lui! Sì, vabbè, ma Gianni è alto, ma non è che... Con Gianni non c'è sostanza, lui. Cosa, tu? Ho detto che con Gianni non c'è sostanza, anche se è alto, ma... Vabbè. Provare per credere. Ah no. Tutti con chi già studia, sì, ma non ve ne vedi la vagogna. Adesso sono stato io a fischiare, eh. Non so cosa mettermi, c'ho tanta arrivo la roba, non so proprio cosa mettermi. Già un consiglio sportivo elegante. Jeans, camicia, cosa ti posso dire? Cosa ti puoi mettere? È un giubbotto. E dove devi andare, perché? Atlanta. Cosa, Antu? Ho detto dove devi andare, perché? Ah, mi appego. Pone di un paio di mondani a girocollo. Infatti sto facendo un paio di pantaloncini a maniche corte. Allora ti metti pantaloncini a maniche corte e una bella felpa a luce e vita, e tu sei a posto. E una cintola in pelle marrone. Infatti, questa è fatto così, dai. E come scarpe c'ho? Mocassini? Oppure quelle scarpe che sono in coso, di amianto sotto? Ma allora ci vogliono le mutande con la martingalla, mi. Davvero? Non ce n'è le spadrigas, Lu, quelle nere col fondo in paglia. Bravo, proprio quelle. Cazzo, non ti voglio anche un pezzo di bicicletta di Vissi, su Maria. A te stamattina ti ho visto di fronte ai giardini, ora ci facevi. Già te lo dico per telefono. ero in quell'edificio per una cosa di bisogno. Ti ho visto, no, di passaggio, mi stavo accompagnando a casa, la 25, ti ho visto, là. Andava bene, è immaginato infatti. Ok, dai. Oh signori, vi saluto. Ciao Luca, Natalino, Gianni, Franco se c'era ancora, tutti gli eventuali ascoltoni, lui, Manuele Ginco e altre cose. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo Antonio, vi ho sentito, dai. Vai, tranquillo, siamo qua. Riccardo, ciao. Comunque il mio hobby, sappilo tanto che ho bisogno, ricordatelo sempre. È normale, Lu, tutti hanno bisogno. No, quello è il mio hobby, poi degli altri se hanno bisogno non me ne frega niente, io ho preso per me. Io dico sempre una cosa, prima di travagliare, fedi di bagare. Qui c'è la canzone di Mandroni, Lu. Orgia. Aggiunto, qui c'è la canzone di Mandroni, ci fate di bagare prima di travagliare. Mi posso bagare poi travagliato. E da poi lo sabato non mandali. Come va questo Luca? Meglio degli altri o peggio? Perfetto, va benissimo, mi presto già, un attimo di bianco. Un altro pianeta è questo, vero? E si conferma. Attenzione Luca, cambia, via. Anda bene, aspetta il telefono, c'è un messaggio. Chi è? Avanti, canale 10, cambia, via. Doppio room, ci sei? Gianni, ci sei? Chi è? Luca. Lu, ma sta andando a farmi la doccia, dai, sono nudo. Vai, caro, vai sempre bene. Puzzinosi. Caccione, ma tu gli dici che sei nudo? Ma pure io non sono nudo, mica da giù di nuda. Caccione, che non sei altro. Porco, sei un porco, Gianni doppio V. Porco. Ciao Lu. Mettici la cosa sotto. sotto con l'antenna. Hai capito? E tu lo vedi che sei tranquillo. Ma sai che si devo mettere anche a me? Il piede in mezzo all'acqua. No, oh, mica un piede in mezzo all'acqua, no. Quella è la massa, dove c'è il coso? La tocchi direttamente alla bua, non so, un pezzo di ferro, quello che vuoi. Che hai sentito? Volete attaccare la massa a un pezzo di ferro. Ah, andare, andare, andare. Paranoia oggi. Adesso ha fatto caldo, e tuttora sta facendo caldo. Sì, meglio così, ora, almeno siamo tranquilli. Tranquilli, tranquilli è morto, tranquilli. Dai, non ti preoccupare, già lo sai che ci vuole poco, capito? Almeno ti diverti, fra po', venti a lavorare, se ti chiamano, fai il maniaco e sei tranquillo. Faccio il maniaco sessuale faccio. Ma non c'è nessuno in questa ruota. No, la verità ancora non si trova nessuno. Sta appena entrando io. Ho appena fatto di cenare. Sì, anche io, mi ho mangiato due panini. Non c'ho voglia di cucinare oggi, stasera. Già che cucino ogni giorno. Ho mangiato un panino veloce, così. E fa bene. Invece cucino per me e anche per Simona, quindi cucino per due persone, ho fatto lo spezzatino, quindi figurati, una cosa all'altra, va. Quella campagna lì ancora ce l'ho retta, poi. Sì, è ancora lì buttata quella campagna, prenditi l'aereo e entra dentro. Prenditi l'aereo, perché? Sì, perché il passaggio è crollato, già lo sai. Qui da quello che non entri da vicino a casa tua, dove c'è quella specie di sbarra. Hai capito? Entri da lì, ti fai tutta una passeggiata fino a giù. Che cazzo, lì va secondo chilometro, arrivi lì. No, non so, 5 chilometri, va, aio. Se no, se no, 1,5 chilometri, non è nemmeno. Quanto? Un chilometro e mezzo della betellina, sonda. Sì, se non di più. La betella se non di più, fino alla campagna tua. La betella, fino arrivare alla campagna tua, sarà uguale. Non ti dico 5 chilometri, no. Però 2 chilometri già ci sono buoni buoni. Sì, cosa ti ho detto? Un chilometro e mezzo ti ho detto io. Massimo, non di più. Vacci, ti fai un giro. Se ci sono pietre, chi se ne frega, se ci sono anche te li fai, se ci sono i cosi te li fai, a me proprio di quella campagna non me ne frega niente, a vedere se con figli, a parte lui, vabbè, ma fai quello che vuoi, non c'è problema. Lì c'era anche la casa, mi sembra, o qualcosa, mi ricordo, o no, o sbaglio. Sì, c'è una casetta, ma è oramai, non penso che ci sia più il tetto, non lo so, sono 5 anni che non ci scendo io, non so ma cos'è sul tetto. Che cavoli, ma però bisogna formarsi però, Ma non mi interessa quanto è vero a me frega proprio niente, per carità, guarda. Vabbè, ma è roba tua, è tua madre era. Era roba di mia madre, di mio padre, hai capito? E quindi dobbiamo fare il passaggio ancora, capito? Perché tocca un pezzo a ciascuno. Vabbè, un pezzo a ciascuno, ma se gli altri non gliene frega. Ma non lo vedo nessuno lì, che vuoi che compri lì ormai? Lascia perdere. Che se mezzo a un fiume sì, me la stai scherzando. Lascia perdere che non ne vuole più nessuno, non rischia più nessuno di ritrovarsi la casa vagata e andare con Carotto la notte. La mattina col cazzo con l'acqua fino al collo ce l'hai altro la mattina. Lì vicino a casa di Mario Massimo lo trovi, capito? Con Carotto, trovi qui incastrato. per carità. Se la abbia ancora quella campagna, tanto per quello che vale, 10.000-15.000 euro, cosa cazzo vuol dire? Una macchina nemmeno ti esce. Tu puoi settare la macchina, ma quella non ti deve prendere la macchinetta, pensala. No, sto aspettando che si faccia vivo qualcuno. Da poco ho visto 520 euro vale l'apparato che ho io. Quindi figurati. Perlomeno, se qualcuno si fa avanti per 500 euro è bene, se no me lo tengo io e lo fa il culo. Aspetta, per la lavarla è meglio che te la tiene, no? Ebbè, io ho pagato 500, ce la faccio danno 450 euro, non esiste, no? L'ho usato se no due volte, tre volte, non di più. Sai che abbia fatto 10 ore di trasmissione, cosa del genere. E anche troppo. Quindi no, a un certo punto non mi interessa. La valutazione è 520 euro, io sto dando 500, quindi... Chi lo vuole se lo prende, chi non lo vuole va a far culo. La paletti a casa, ma a me i soldi non me ne chiede. Fai bene, dai. Fai bene. No, io ho visto quella macchinetta che dovevi prendere tu, parcheggiata, Non so, l'ho vista che è parcheggiata, ma io ce la faccio un sacco di roba anche in quella macchinetta a me. Anche se dovessi vendere l'apparato 500 euro, ritirare 500 euro, devo fare il passaggio, e sono altri 300 euro. Più devo farmi tutta la pace che ce l'ho a fare, in pratica quella macchina sarà intorno ai 800, 1000 euro, una cosa del genere, capito? Tutto lì. Vabbè, 450, se ti deve lasciare 500, 450, quello che è. Poi 100 è qualcosa di passaggio. Poi l'assicurazione, pagherai altre sulle 300 qualcosa di assicurazione. Io lo so, vabbè, a me lo viaggio tranquillo, sono tappato, quello va bene, capito? A parte che pagare 150 euro di scuola guida, perché sono apparecchio che io capito, non c'ho più patentino, quindi a un certo punto devo fare anche patentino, eccetera, eccetera, tutta quella prassi. Quindi c'è roba in più. Vabbè, il patentino non è che ci voglia molto, sono 36 ore settimanali, insomma, non è che ci voglia questo granché. Deve studiare, è come una patente normale adesso, non è così, no? Sì, secondo me, ci sono quegli scooter UFO, senza patente, senza casco, senza assicurazione, esco con quelli e sono tranquillo, 850 euro e ce l'ho a casa. Io di quello poi lo prenderò. Adesso vediamo un po'. Vediamo un po'. Vabbè, la patente ci vuole, come è? Ci vuole la patente, non è così, no, perché si ci ha fusati, UFO, mica UFO, che non vanno un accidente. Tu parli bene, ci vuole la patente, ci vuole quello, ci vuole la calcolazione, ci vuole il bollo, ce ne vuole la roba. E se non c'è soldi cosa fai? Ti tieni la patente e ti attacchi al culo, ti attacchi. Aspetti che ti scala la patente, non c'è lavoro, non c'è niente, ti attacchi a pupa anche tu. E la macchina per... prendi te la vendi. Ma io la patente ce l'ho. Ho già 23-24 anni a patente e ogni 5 anni la rinnovo la patente. Sì, vabbè, poi devi pagare bollo, assicurazione, se c'è la macchina, se non c'è la macchina si è fregata. Non so, la macchina è un lusso, oggi che io uso la macchina, avere la macchina è un lusso, vuole mantenuta, ma è avere la macchina così a comprare è facile a prenderla, da mantenerla. Appunto, dopo quello sotto la portano via, se tu la parcheggi davanti a casa tua, è come si è fregato lo stesso, hai capito? Il discorso è quello adesso. Tutti facendo la luce stanno a quest'ora. Tutti mangiando si stanno. E allora? Oggi è un canale Sixi questo, in pratica non c'è manco un cane. Ma non ci sono in tutti i canali, o no, ma come? Questa è morta, non c'è più nessuno. E vabbè, già c'è gente ascolta, non ti preoccupare. Non entro, ma ascolta, il discorso è quello. Tutti con le orecchie pelose sono, tutti con le orecchie pelosi. Telefono a Falcone di entrare, sai la gente che entra quando si sente a Falcone? Si riempie la 27 come se ci fosse come un avviso, se te lo dico io. Ma io appena fatto quello di là, se non sono abitare. E mi sembra di sì. Che gli assosso gli abbutano giù immediatamente, non sono così matti io. Vabbè, cos'è, dov'è il problema? Ma... io regaliamo noi il baracchino al limite, là, anche l'antenna, così si la pepe al sorso. Già c'è la cosa, se ti ricordi a cosa, ma non lo so, te lo ricordi a me. E lì c'è la discorda buria. Hai fatto bene, guardi, avanti il bip che vuole entrare, avanti. Che vuole entrare col bip? Sparito. Abbasso, era. Sì, ribasso di terra. Se avete il bip sotto, schiacciando e basta. Un paio di volte. Ma io quanto ti arrivo per canto? Ma ci arrivo. Sì, quanto ieri? 7, 8, 9, 6, segnale. La radio come passa? Già è 5 la radio. Beh, arrivavo quasi 7-8, una cosa del genere. Questo qui? No, quello che ha scassato poco fa, poi si è sparito. Davvero, mi? Siamo andati poveri e esiliati pure. No, c'è anche un... l'857D. L'857D è quello della IAESO. Esatto, c'è quello. E quello qua rimane, come quello che avevo io. Sì, ce l'ho scatolato ancora. E vabbè, ma non lo stai usando quello? No, sto usando... no, 87 sto usando. La verità. Ho la 87 e la Midland. Cosa c'è? Quello? Sul 2009 e come si chiama? Il Comex 4000. Ah, quella già andata davanti. E poi c'è l'omologato, vabbè, che quello non si fa nulla. Comunque sia, c'è un baracchino, un portatile, quindi due portatili per PMR, VHF, eccetera, eccetera. Quindi avevo la roba. Basta avanza. Sì, vabbè, per frequentare c'è, non c'è più nessuno, basta uno solo. Appunto per quello. Basta uno solo, se la biglietta poi. Mi ricordo 30 anni fa, cazzo, dall'1 al 40 pieno di frequenza. Dai 45 lo stesso, erano pieni, che modulavano. Ma guarda, dall'1 al 40 non va più nessuno. E vabbè, ma prima della prima delle ragazze già lo sai anche tu già, facevamo la guerra per la pelle, chi se la faceva prima, diceva quello. Prima erano altri bei tempi. sono tutti nuovi con computer, telefono, mano. Certo che vado su Instagram io. Oh, avrebbe cazzo, curi. Tutti i miei curi adesso. Su Instagram. Non arrivare, guarda. Lo schifo è diventato va, quella cosa. Una massa di troie, salgo, di salciante. C'è poca gente che conosco, cazzo, tutti lì sono, cazzo, a cercare le donne, cazzo. Io mi sono iscritto su uomini e donne single, cazzo. Ogni tanto ne arriva una, tutte sposate sono, cazzo Dio. Quanto sono tutte sposate quelle. Per carità, perché c'è quell'altra cazzo che si mette in un hotel, tanto per avere cazzo di cose, più mi piace possibile, tanto si fa vedere, guarda. Hai capito, come ci guadagna un po' di soldi, cazzo. Lasciare fare, ormai, non c'è più religione, ormai sono tutti col culo di fuori, quando si fa una foto, tutti col culo di fuori. Tu ci ascolta, io no, ho una invalidità, ho 10 centimetri, mettimi mi piace, almeno siamo a posto. Tu scrivi così, hai capito? Vedrai che ci avrai io. Si mette la fatta davvero un pezzo di salsiccione. Allora lì si piazzano un metro di piazzare. Sì. E vuole niente in chi ricco. Cocco. Ma avevo una così, Antone, è meglio che mi salga la sola. Sì, ce la fai a pagare soldi per, boh, per queste cose qui. Per carità, guarda, meglio niente. Va bene, ok. A dopo, là, ci sentiamo. Ciao, ciao. Ciao.